Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Omicidio pluri, aggravato e vilipendio di cadavere. Resteranno in carcere madre e compagna di Alessandro Venier, fatto a pezzi nella sua casa di Gemona. Ed è forse da ricondurre agli atteggiamenti violenti contro la madre della loro bimba di 6 mesi, il movente dell'assassinio. Auto si cappotta in una scarpata a Paularo nel cuore della notte. Il veicolo trattenuto dagli arbusti, in salvo i 5 occupanti, 4 erano minorenni. Incendio nella notte a Trieste, a fuoco un capannone in fase di dismissione in via Malaspina, all'interno tappi in sughero, lavoro fino all'alba per i pompieri. Dazi USA al 15%, le entrate degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia rischiano di assottigliarsi di ben 400 milioni di euro all'anno, dice la CGA di Mestre. Fare il vino in Scandinavia, un tempo ipotesi assurda, oggi realtà. A Forni di Sotto le nuove geografie del vino con gli enologi che hanno scelto il nord. Le recenti incursioni di lupi nella pedemontana pordenonese fanno discutere, gli amministratori chiedono sicurezza per i cittadini e le attività economiche. Calcio verso il tutto esaurito a Udine allo Stadio Friuli per la finale di Supercoppa del 13 agosto tra Paris Saint-Germain e Tottenham, i trofei del calcio europeo in mostra a Trieste. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli in primo piano. Ancora l'omicidio di Gemona per l'assassinio di Alessandro Venier, fatto a pezzi nella casa dove viveva con la madre Lorena Venier e la compagna. La procura di Udine ha chiesto per le due donne la custodia cautelare in carcere. I legali di Maylin Castro Monsalvo faranno richiesta di una custodia attenuata. La donna è infatti madre di una bambina di soli 6 mesi. Il capo d'imputazione per le due di omicidio pluri aggravato dalla premeditazione e dalla presenza della minore, contestati anche il vilipendio e l'occultamento di cadavere. Sarebbe stata la paura a spingere Lorena Venier a uccidere il figlio Alessandro insieme alla nuora trentenne Maylin Castro Monsalvo. Paura che Alessandro facesse del male proprio a Maylin, che lei considerava come una figlia, oltre che alla nipote di 6 mesi. Durante quel trasferimento in Colombia che Alessandro aveva organizzato comprando un terreno, il figlio, già violento contro la compagna nella villetta di Gemona, avrebbe potuto scatenarsi, temeva Lorena Venier. La notizia arriva da fonti investigative nel giorno dell'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Udine di Lorena Venier e Maylin Monsalvo. Per loro il capo di imputazione è quello di omicidio pluriaggravato dalla presenza della neonata e dalla premeditazione, che la procura contesta in particolare in base al dettaglio della calce utilizzata da Lorena Venier per coprire il cadavere del figlio dopo l'omicidio, ma che la donna avrebbe acquistato prima di uccidere Alessandro. Madre e compagna avrebbero agito in concorso, contestato anche l'occultamento di cadavere e il vilipendio. L'avvocato di Lorena Venier, Giovanni Denardo, ha chiesto per la sua assistita agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre i difensori di Maylin Monsalvo, Federica Tosel e Francesco De Carlo, hanno chiesto una custodia speciale attenuata per detenute madri di bambini con meno di un anno, per permetterle di prendersi cura della neonata avuta con Venier. Monsalvo, che si avvalsa della facoltà di non rispondere, è in condizioni psicofisiche precarie, ma davanti al giudice e anche grazie a una traduttrice dallo spagnolo, sua lingua madre, ha iniziato ad acquisire consapevolezza di quanto avvenuto. Udine, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca a Paularo: questa notte un'auto si è cappottata lungo la strada tra Salina e Castoia ed è rimasta in bilico dopo essere scivolata per una decina di metri sotto la carreggiata. A fermarla sono stati alcuni grossi arbusti che hanno evitato che la vettura precipitasse lungo la scarpata. A bordo c'erano 5 giovani, di cui uno solo maggiorenne, che solo lievemente feriti, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco sul posto con elisoccorso e carabinieri e presi in carico dal personale sanitario. È un incendio divampato poco prima di mezzanotte a Trieste in via Malaspina. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone di circa 3.000 metri quadrati in dismissione, dove erano conservati tappi in sughero. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Muggia, 2 autobotti, l'autoscala, il carro aria, il capoturno e il funzionario di guardia. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento, è stato quindi ispezionato il capannone per verificare che all'interno non ci fosse fossero persone. Dopo le 2:30 della notte sono iniziate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della zona, che sono terminate intorno alle 4:30 di questa mattina. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, sul posto anche la polizia. Parliamo ora dei dazi degli Stati Uniti, che per il Friuli Venezia Giulia si possono tradurre in un conto da 400 milioni di euro. Comunque ottimista l'Associazione di Artigiani e Piccole e Medie Imprese CGA di Mestre, che commenta: i prodotti regionali possono reggere. Con l'entrata in vigore da giovedì prossimo 7 agosto dei nuovi dazi USA al 15%, le entrate degli imprenditori del Friuli Venezia Giulia rischiano di assottigliarsi di ben 400 milioni di euro all'anno. Lo stima l'ufficio studi della CGA, Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, con sede a Mestre, considerando non solo le mancate esportazioni, ma anche gli effetti indiretti sull'intero sistema economico locale. La regione, che nel 2024 ha esportato negli Stati Uniti merci per 2 miliardi e 300 milioni di euro, ha già visto un calo dell'export, anche se contenuto. I consumatori americani saranno disposti a pagare di più per i prodotti made in Friuli Venezia Giulia? Facciamo un esempio. Nei negozi americani una ribolla gialla friulana può costare da 40 a oltre 150 dollari. Con i dazi, il consumatore americano potrebbe essere tentato di preferire i vini locali. Su questo la CGA è ottimista, anche perché la maggior parte delle esportazioni regionali in America vanno ad una clientela facoltosa, meno sensibile ai rincari, ma questo non vale per tutti i comparti, come spiega Paolo Zabeo, coordinatore della CGA di Mestre. Per questo è fondamentale che a livello europeo vengano individuate risorse concrete a sostegno delle imprese e dei lavoratori che subiranno le conseguenze più gravi dalle politiche proibizionistiche volute dall'amministrazione Trump. Il vero rischio, avvertono gli analisti, è la svalutazione monetaria. Oggi un euro vale $1.20 e così i prodotti europei risultano sempre più costosi, e questo va a sommarsi all'effetto dei dazi. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Simposio ad Alta Forni di Sotto per parlare di viticoltura del futuro, che si sta già spostando sempre più in quota e anche sempre più a nord nel vecchio continente. Sono soprattutto vini bianchi, freschi e di facile beva, ma c'è chi prova anche a produrre rosati e rossi. Sono i caratteri di una coltivazione vitivinicola ancora giovane e molto particolare, quella della Scandinavia. Un'espressione che fino a 20 anni fa sarebbe sembrata assurda, visto il clima freddo e piovoso, inadatto alla vite, ma che oggi, conseguenza del cambiamento climatico e dell'applicazione delle viti resistenti, è realtà. Se ne è parlato a Forni di Sotto in un incontro sulle nuove geografie produttive della vite e sulle varietà chiamate PIVI, acronimo di un'espressione tedesca, Pilze Widerstandsfähig, cioè in grado di resistere ai funghi, creati in laboratorio ed efficaci anche nei climi più freddi. Nicola D'Agostini, enologo di una cantina in Svezia. La viticoltura si sta spostando sempre più a nord per ovvie ragioni climatiche, e pian piano si sta espandendo. Si parla ancora di un'industria, almeno per quella svedese, abbastanza piccola, molto piccola, in realtà si fa poco meno di 200 ettari e circa una cinquantina di produttori, però diciamo industriali o comunque consistenti. Luca Filannino, direttore tecnico di una coltivazione in Danimarca. Nella nostra azienda abbiamo più di 40.000 visitatori l'anno, anche perché è nuova, come quindi attrae molte persone, soprattutto durante il periodo estivo. E si vede come i ragazzi sono molto contenti, ecco, di questi stili di vini acidi, freschi, di facile beva. La ricerca delle viti resistenti permette soprattutto di creare esemplari più forti di fronte alle malattie. Al convegno viene illustrato l'esempio dal Veneto delle varianti per il Prosecco. Irene Olivotto, del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano. Il poter avere delle nuove varietà simili alla glera dal punto di vista organolettico, morfologico, fenologico, ma più tolleranti per queste patologie, significa avere minori trattamenti e una serie di benefici ambientali e sociali e economici per tutto il territorio. Forni di Sotto, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da Polcenigola a Val Tramontina nelle ultime settimane sono stati diversi, e in varie zone della pedemontana pordenonese, gli attacchi e gli avvistamenti di lupi. L'amministrazione di Tramonti di Sotto è fra quelle che si sono attivate per chiedere sicurezza per i cittadini e per le attività economiche. Il punto con l'assessore Giovanni Di Benedetto. Quali sono gli ultimi episodi di aggressioni da parte di animali, in particolare? Le aggressioni sono iniziate, diciamo, lo scorso autunno. L'ultima in ordine di tempo è avvenuta sul Monte Teglara, in una malga che adesso è monticata, quindi ci sono degli allevatori che producono latte, e il loro gregge è stato decimato da un'aggressione di 5 o 6 canidi, quindi in branco. Ce n'erano stati altri, un'altra predazione è avvenuta quasi in centro, qui a Tramonti di Sotto, nel nostro pastore sardo che produce pecorino tipico, e la seconda a Campone, animali selvatici, quindi cervi, ed è avvenuta in centro paese, quindi la preoccupazione è un po' aumentata. Questi sono i tre episodi più recenti degli attacchi e degli avvistamenti dei lupi. L'amministrazione di Tramonti si era mobilitata per chiedere cosa? L'amministrazione si è mobilitata perché c'è bisogno di sicurezza per i cittadini. Chiaramente noi non demonizziamo i predatori, però viene richiesta dalla popolazione e da tutti, anche gli allevatori e gli esercenti, la massima sicurezza per l'uomo e anche per le proprie attività economiche. Quindi il sindaco Bidoli si è mobilitato per chiedere un monitoraggio dei predatori e per fare una sensibilizzazione sul territorio concertata con gli altri comuni e le altre amministrazioni, e anche un certo tipo di prevenzione contro i predatori. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al traffico. Secondo Sabato da Bollino, nero quello di oggi lungo l'autostrada A4, anche se come una settimana fa sull'andamento dei transiti potrebbe incidere il maltempo. Al momento si registrano code a causa di traffico intenso in entrata in A4 alla Tisana, poi 7 chilometri tra la Tisana e il bivio A4 A23, code anche all'Isert verso Trieste con l'area di servizio di Duino Sud sovraffollata. Alla barriera dell'Isert, autostrade Alto Adriatico, attende il passaggio di quasi 23.000 mezzi, a cui sono da aggiungersi 16.000 previsti alla barriera di Villesse Gorizia. Per chi diretto verso la Slovenia e la Croazia opterà per il bypass della 34. Domani, domenica, sarà una giornata invece da bollino giallo per traffico sostenuto, sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio e in direzione Venezia al pomeriggio. 12:42, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 24 gradi. Il mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Gorizia 23 gradi e mezzo, a Udine 22, a Pordenone 20 gradi e 5 decimi. In Aramontana Tolmezzo 16, Forni di Sopra 13 gradi e 5 decimi. Tarvisio e Piancavallo 13, Sappada 12 gradi e mezzo, in quota sul Monte Lussari 9 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolana 9, sulla costa Lignano e Grado 24 gradi, la temperatura del mare a Lignano è di 25 gradi e mezzo, a Grado di 24 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio tempo instabile su tutte le zone con rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore, le piogge localmente potranno essere intense con qualche temporale forte, domani nuvolosità variabile, sulla costa soffierà vento da nord-est moderato, piogge sparse sui monti e più probabilmente dal pomeriggio possibili anche su qualche zona di pianura e di costa, forse associate a qualche rovescio temporalesco. A Bologna questa mattina un lungo corteo ha attraversato la città per ricordare la strage di 45 anni fa in un attentato neofascista che provocò oltre 80 morti e centinaia di feriti. In stazione quel mattino c'era anche Eliseo Pucher di Ovaro, l'abbiamo intervistato. È piombata giù tutta la sala d'aspetto. Io ero dentro nelle macerie fino all'altezza della cintola più o meno, ma ero bloccato e non parlavo. Su un momento c'era tutto un grande silenzio e dopo ho cominciato a sentire chiamare, lamenti. È di 85 morti e 216 feriti il bilancio della strage di Bologna del 2 agosto 1980, attentato terroristico di matrice neofascista, considerato il più grave dell'Italia del secondo dopoguerra. Avvenuto nella stazione centrale cittadina, fu provocato dall'esplosione di un ordigno posto in una sala d'aspetto. Tra i sopravvissuti, Eliseo Pucher, originario di Ovaro, che all'epoca aveva 30 anni e stava viaggiando per lavoro. A causa del ritardo del treno che attendeva, si trovava in una sala d'aspetto della stazione. Gravissime le ferite subite. Mi veniva giù il sangue perché aveva una ferita abbastanza estesa sulla testa, insomma. E nel braccio sinistro non lo muovevo perché era rotto lì, era un'emorragia. Avevo rotto anche i malleoli interni del piede destro, la gamba era tutta mezza acciullata. Profondo anche il trauma emotivo. Fatto 2 anni un po' brutti perché avevo paura. Un'esperienza di cui Pucker riconosce anche il lato positivo della solidarietà sorta tra sopravvissuti e soccorritori. E i bolognesi che ci sono anche sempre stati vicini. E proseguiamo con le notizie del giornale. Atteso in serata a ronchi dei legionari il rientro per fine mandato del contingente italiano in Libano a guida della brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, impegnata nella missione UNIFIL. A guidare, uomini e donne dell'esercito, il generale di brigata Nicola Mandolesi, che ha ricoperto dallo scorso febbraio al 1 agosto l'incarico di comandante del settore ovest di UNIFIL e del contingente. La pagina della cultura, concerto Tris di Tri con musiche di Brahms e Debussy, che si terrà oggi a Cividale del Friuli al chiostro del monastero di Santa Maria in Valle alle 21. Al Parco Martiri delle Foibe di Udine l'evento organizzato dal Circolo Arci Mi Scappa alle 20:30. Concerto di presentazione di Zora con Nicole Coceancic, voce e chitarra, Mirko Tondon, contrabbasso, Giacomo Gecchi, acuzzo, percussioni, Alvise Nodale, Buzuki, tastiera e chitarra. L'album Zora, prodotto da Nota, racconta la storia di una ragazza 14enne che fugge dal Pakistan al Friuli Venezia Giulia. L'apertura del chiosco alle 17, il parco sarà allestito con porte, reti e giochi all'aria aperta. Il ciclo Carni Armonie propone oggi il concerto accordi e disaccordi di chitarre, ukulele, contrabbasso, glockenspiel e percussioni ad Ampezzo nel retro della chiesa della Beata Vergine del Rosario e San Daniele Profeta alle 20:30. E prosegue in piazzetta Calderari a Pordenone il tour di concerti armoniosi loci all'interno di Arena Musica, il nuovo padiglione sonoro itinerante progettato secondo criteri di biodesign che offre un'esperienza immersiva tra suoni, racconti e strumenti d'autore. Alle 21 il concerto Bandura e Voce con la giovane arpista ucraina Maria Mikhailetska, iscritta oggi al Conservatorio Tartini di Trieste, oltre allo studio dell'arpa classica, approfondisce le tradizioni musicali ucraine eseguendo canti popolari con uno strumento tradizionale simile a liuto eccetera, chiamato bandola o fandora, introdotto in Europa nel XV secolo. Questo strumento si suona con plettro e può avere fino a 50 corde nei modelli moderni. L'incontro artistico tra la cantautrice Anna Castiglia e l'autore Andrea Pennacchi per il cartellone di onde mediterranee si terrà a Gradisca di Sonzo all'Arena del Castello alle 21. E si intitola Marvin e suoi amici, la mostra internazionale di fotografia stenopeica che allestisce opere di 50 autori provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Lituania, Polonia, Svezia, Ucraina, Romania e Ungheria. L'allestimento è oggi in inaugurazione a Moggio Dinese alla Torre Medievale alle 17, dove sarà accessibile fino al 31 agosto. Curatore dell'esposizione è il fotografo Vincenzo Marzocchini, a cui abbiamo chiesto una definizione di fotografia stenopeica. Nelle scatole stenopeiche le immagini si formano da sole. Sui supporti sensibili alla luce, che possono essere carte o pellicole, esse si depositano in modo molto lento perché la luce entra da un forellino piccolo che sostituisce l'obiettivo. Quindi idealmente sarebbero le famose camere obscure in miniatura che utilizzavano i pittori. Quando poi hanno inventato ai primi dell'Ottocento del materiale sensibile alla luce sui quali le immagini potevano impressionarsi e rimanere lì, una volta stabilizzate con il fissaggio, ecco allora che queste camere oscure dei pittori diventano sempre più piccole e si trasformano in macchine fotografiche. È un modo diverso di percepire il mondo, perché siccome le immagini si formano lentamente, occorrono da alcuni secondi a seconda delle condizioni della luce fino a 20, 30, 40 minuti, anche ore nelle zone scure un po' buie, e addirittura per ottenere le solarigrafie, cioè le scritture del sole, occorrono mesi, 8 mesi, 9 mesi. prima di ottenere l'immagine definitiva. Ecco, mentre con la foto tradizionale scattiamo e quasi rubiamo l'immagine, invece con la fotografia stenopeica noi siamo lì, guardiamo chi ci sta davanti e le osserviamo a lungo, quindi percepiamo il mondo in maniera diversa e riflettiamo molto di più sulle cose. C'è una caduta di luce ai bordi, quindi i bordi vengono sfumati, c'è una mancanza di nitidezza, ma questa mancanza di nitidezza però corrisponde alla visione naturale dell'occhio. Doppio anniversario per il Festival del Folklore di Sappada, che in coincidenza della 25esima edizione celebra anche il 50esimo anniversario del gruppo folcloristico Italia Legna, organizzatore della manifestazione. Saranno presenti gruppi da India, Messico e dalla Val Badia. Ad aprire la manifestazione sarà la tradizionale sfilata lungo il centro con partenza alle 16.45. Alla sera, sotto il tendone riscaldato in località Ibn, ci sarà l'esibizione dei gruppi folcloristici con inizio alle 20.45. L'associazione friulana Vapore Vivo comunica che oggi sarà accessibile il circuito ferroviario in miniatura Ferrovie dello Stella a Rivignano Teore in via Sauro dalle 17 alle 20. Correranno e saranno visibili le locomotive a vapore in scala 1 a 6 e quelle elettriche, con cui si potranno effettuare delle corse lungo il circuito di quasi un chilometro. Le locomotive sono vere riproduzioni in scala di locomotive a vapore elettriche delle ferrovie italiane e inglesi. E ora lo sport. Con la Supercoppa UEFA di calcio si va verso il tutto esaurito allo Stadio Friuli per il match del 13 agosto tra Paris Saint-Germain e Tottenham. E intanto oggi i trofei di Champions League, Europa League e UEFA Super Cup si mettono in mostra a Trieste. C'è addirittura un po' di coda per l'apertura delle porte. Dopo Gorizia anche Trieste mette in mostra le tre coppe UEFA a disposizione in Piazza della Borsa per foto e selfie. La mitica Champions o Coppa dei Campioni, che tanti tifosi sognano di vincere o di rivincere, l'Europa League vinta dall'Atalanta nel 2024 e la Supercoppa, quella che il 13 agosto sarà alzata allo Stadio Friuli o dai francesi del PSG o dagli inglesi del Tottenham. Dopo Trieste i trofei saranno in mostra a Grado e Lignano prima di spostarsi a Udine, in fila non solo appassionati locali ma anche turisti che insospettabilmente tifano per squadre italiane. Il tour delle coppe in regione è solo una delle tante iniziative organizzate per promuovere la partita. In Piazza Unità da qualche giorno mini fan area con i cartonati dei giocatori, un maxi pallone, il gonfalone della manifestazione sulla facciata di Piazza Unità, i biglietti già andati a ruba in tre giorni. Sul sito della UEFA attualmente non ci sono più disponibilità per italiani delle tre categorie dai 30 ai 130 euro, rimane qualche manciata di poltronissime da 350 euro. I tifosi delle due squadre partecipanti hanno invece già avuto accesso ai biglietti loro assegnati tramite i rispettivi club, con 5.800 e 4.700 biglietti acquistati rispettivamente dai tifosi del PSG e del Tottenham. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Regia Mauro Ciccarelli, Walter Vidonis in redazione, ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.